2024. 2024 di Enrico Pagliarini. Ed eccoci di nuovo insieme, ecco a voi una nuova puntata di 2024. Questo è il programma di tecnologia di Radio 24 in onda il venerdì tra le 22 e le 23, la domenica alle 13 in una versione più breve. E come sempre ci trovate sul nostro sito internet in versione podcast. Quindi se non l'avete ancora fatto vi consigliamo di abbonarvi gratuitamente al servizio podcast di Radio 24 e naturalmente di 2024. Il nostro indirizzo di posta elettronica è 2024@radio24.it. Io sono Enrico Pagliarini, potete raggiungermi anche attraverso Facebook oppure Twitter. Questa sera parleremo della missione di Samantha Cristoforetti sulla Stazione Spaziale Internazionale. Incontreremo anche l'amministratore delegato di Microsoft Italia, Carlo Purassanta, e poi parleremo anche di altre cose legate al traffico, ai dati del traffico automobilistico sui nostri smartphone, sui navigatori, eccetera, eccetera. Iniziamo con le nostre Digital News. Digital News. Iniziamo da alcune notizie che riguardano l'Unione Europea, l'Italia che sta presiedendo l'Unione Europea in questo semestre che si concluderà tra poco. Allora, c'è stato qualche ingenuo, anche tra i colleghi giornalisti, che ad aprile aveva scritto della fine imminente del roaming in Europa. Avevamo naturalmente spiegato tutto per bene dicendo calma, è stata una decisione del Parlamento europeo quella di azzerare le tariffe di roaming dal prossimo anno, che però doveva essere discussa dal Consiglio europeo e dalla Commissione. Avevamo spiegato che questa decisione molto probabilmente sarebbe stata emendata, cambiata e comunque insomma doveva passare per le maglie del Consiglio europeo e della Commissione. Allora, visto che non tutti i paesi erano e sono d'accordo, l'Italia in questo semestre aveva proposto una sorta di mediazione, la fine del roaming spostata di un anno alla fine del 2016. Ma visto che anche questa decisione, non trova d'accordo tutti i paesi europei, questa decisione potrebbe slittare, quindi non dovrebbe essere presa all'interno del semestre europeo. Si era detto l'Italia cercherà di fare, non farà niente, e quindi probabilmente slitterà, a meno che ci sia una riunione straordinaria di alcuni esperti che mediano su questa materia, che poi verrà proposta al Consiglio europeo. Ma molti esperti ci dicono che dovrebbe slittare. Comunque se ne discuterà al Consiglio europeo delle telecomunicazioni, quindi i ministri delle telecomunicazioni europei, la prossima settimana, giovedì 27 novembre. Digital News. A questo Consiglio europeo si discuterà anche di un altro tema molto importante sul quale si era espresso il Parlamento con una certa decisione in difesa della neutralità della rete. Un'ottima cosa, un ottimo provvedimento, un'ottima scelta del Parlamento europeo. Pare che anche in questo caso l'Italia si sia fatta portavoce di tutta quella parte dell'Unione europea che da un certo punto di vista strizza l'occhio alle aziende di telecomunicazioni e anche ai broadcaster, quindi a chi detiene contenuti che in prospettiva verranno diffusi sulla rete internet. Pare che, secondo varie fonti che noi abbiamo sentito in queste ultime ore, in questi ultimi giorni, ci sia un ammorbidimento della posizione del Parlamento europeo sulla neutralità della rete, che è un principio fondamentale per la rete internet, per lo sviluppo della rete internet. E tra l'altro, in un periodo in cui anche Barack Obama si è schierato apertamente e con decisione a favore della neutralità della rete, ci sembra un passo indietro quello dell'Italia, se verrà confermato. Poi vedremo che cosa si deciderà giovedì 27 novembre a questo Consiglio. Sicuramente è una cosa che non va bene e quindi che noi stigmatizziamo e condanniamo con tutta la forza. Digital News. C'è una novità che riguarda WhatsApp. Nell'ultima versione per Android, appena aggiornata, è stata attivata la crittografia end-to-end dei messaggi, quindi dal terminale di chi scrive fino al terminale di chi riceve un messaggio. Questa è una buona notizia perché in questo modo nemmeno la società, nemmeno WhatsApp, dovrebbe essere in grado di decifrare i dati scambiati da due terminali e quindi nemmeno fornire il contenuto alle forze di polizia. Poi c'è tutto il dibattito e da un certo punto di vista le forze di polizia hanno ragione, perché nel caso di intercettazione, di possibile intercettazione di due terminali, di due banditi, questo è comunque un grosso problema. Ai fini della privacy degli utenti generali, quelli onesti, è una buona cosa, ma in quel caso specifico non lo è. Digital News. Quello della protezione dei dati e della sicurezza nelle comunicazioni tramite smartphone, ma in generale su internet, rimane uno dei temi più importanti su cui c'è troppa poca attenzione, noi lo ripetiamo sempre. C'è una notizia che riguarda sempre questo tema ad una conferenza di HP a Tokyo, una parte di una conferenza in cui c'era una sorta di gara di hacker, di esperti di sicurezza. Allora, diversi hacker hanno cercato di superare le difese di alcuni dei più diffusi smartphone sul mercato, sostanzialmente poi sistemi operativi. Allora, in palio c'erano $150,000 al più bravo. Gli hacker sono riusciti a prendere, in modo particolare uno, quello che ha vinto, ha preso il controllo sia di un terminale Android sia di un terminale con iOS, quindi di un iPhone. Mentre Windows Phone non è stato completamente forzato, cioè è stato bucato in parte, qualcosa si è riuscito a rubare, però non completamente. Ricordiamo che in questo caso era proprio un'azione precisa e puntuale di un esperto di sicurezza che tentava di bucare un terminale. Altra cosa è il problema dei virus, un problema molto grave, e in questo caso Android è la piattaforma più colpita anche e soprattutto per la sua maggiore diffusione. Digital News. Abbiamo altre due notizie. La prima, a proposito di crittografia, è interessante, un test che è stato fatto da una società che si occupa di test a livello informatico, secondo cui la cifratura dei dati attiva di default su Android 5.0, la nuova versione Lollipop, impatta in modo molto forte, molto sensibile sulle prestazioni di lettura e scrittura sulla memoria del telefono. Questo che cosa può significare? Che vista l'elevata cifratura dei dati, quindi la protezione dei dati, questo consuma energia, ci si mette più tempo a fare tutte le operazioni e quindi molto probabilmente in molti casi le applicazioni vengono fortemente rallentate. Io però consiglio, usate la cifratura, usate la crittografia, se ci mettete un po' più di tempo, se è un'applicazione un po' più lenta, amen. Digital News. Ultima notizia riguarda Technics, che da settembre è stato rilanciato, il marchio, il brand Technics è stato rilanciato da Panasonic, farà partire a breve un nuovo servizio di musica denominato Technics Tracks, che offrirà tracce in formato lossless, quindi senza perdita, in alta risoluzione. Questo è un trend molto interessante, la notizia la diamo per questo motivo, per commentare questo trend. Al lancio di questo Technics Tracks ci saranno, il servizio sarà disponibile solo in Gran Bretagna e in Germania, ma quello che va registrato e va notato è che nasce un nuovo servizio, non dico l'ennesimo, ce ne sono pochi e non sono molto popolari, però questa è una tendenza, vedremo poi se anche i grandi player della musica, da iTunes a Spotify eccetera eccetera, andranno sempre più in questa direzione di una musica di altissima qualità anche su internet. Ebbene, adesso parliamo della missione di Samantha Cristoforetti sulla Stazione Spaziale Internazionale. Si tratta della prima astronauta italiana, la prima astronauta donna a salire sulla Stazione Spaziale Internazionale, una missione importante per l'Italia, per l'Europa. Partenza domenica ore 22.01 con un razzo e anche con la capsula Soyuz, che poche ore dopo entrerà in orbita e porterà l'equipaggio di 3 persone, perché sulla Soyuz più di 3 persone non ci stanno, con altri 2 colleghi astronauti sulla Stazione Spaziale Internazionale. Adesso vi raccontiamo alcune delle cose che succederanno a bordo e anche dell'importanza di questa missione con Luigi Bignami, che è un collega esperto, sicuramente tra i più esperti di spazio in Italia, che ci racconterà anche che cosa succederà nei prossimi mesi, le altre importanti missioni non solo europee ma internazionali. È la 42esima missione che porta 3 astronauti alla Stazione Spaziale Internazionale. Per la prima volta, quello che è molto bello per noi italiani è che lassù ci sarà una donna italiana, un'astronauta italiana, 37 anni, un capitano dell'aeronautica militare, che eseguirà tutta una serie di esperimenti sui quali si sta preparando ormai dal 2009, quando venne scelta per essere appunto un'astronauta. Gli esperimenti che farà riguardano soprattutto la fisiologia del corpo umano, cioè cercare di capire come il corpo umano si comporta nello spazio, anche perché proprio recentemente la NASA ha pubblicato una ricerca che riguarda gli astronauti che hanno volato per lunghi periodi nello spazio, e si è visto come il comportamento dell'uomo e della donna hanno un diverso modo di vivere lo spazio. Le donne, per esempio, sono più suscettibili ai raggi cosmici e quindi bisognerà in futuro far sì che le navicelle che compieranno i lunghi viaggi siano maggiormente schermate rispetto a quanto si pensava, ma gli uomini sono più soggetti a problemi all'udito, agli occhi e ad altri fattori. Per cui studiare il comportamento anche delle donne, visto che ne sono volate molto poche rispetto agli uomini, è estremamente importante. Che altre cose succederanno sulla Stazione Spaziale Internazionale in concomitanza con questa missione di Samantha Cristoforetti, che ricordiamo starà su 6 mesi, ma questa non è una novità, perché quasi tutti gli astronauti rimangono 6 mesi, giusto? Ormai sì, ormai tutte le missioni hanno come obiettivo minimo 6 mesi. Samantha Cristoforetti incontrerà 2 astronauti dell'equipaggio 43 che inizieranno invece a rimanere nello spazio per un anno. Sono un russo e un americano, anzi questo americano ha una particolarità, che ha un gemello che rimarrà a terra, e quindi potranno studiare le variazioni proprio di una lunga permanenza nello spazio rispetto al gemello, anch'esso astronauta, che comunque in quel periodo rimane a terra. Particolarità della missione sono più che altro delle curiosità della missione. Ad esempio, Cristoforetti per la prima volta utilizzerà una stampante 3D che è stata messa a punto, è stata proprio sistemata in questi ultimi giorni e funziona benissimo. Sarà la prima astronauta a bere un caffè italiano, perché una ditta italiana ha costruito un sistema per poter produrre del caffè espresso nello spazio, con tantissime difficoltà, perché sappiamo che la NASA non voleva e non vuole che l'acqua arrivi a 100 gradi, e sappiamo, per gli appassionati del buon caffè, che per avere un buon caffè l'acqua deve bollire, quindi hanno dovuto trovare delle tecniche per utilizzare acqua a minore pressione, insomma una tecnologia che però darà modo a tutti gli astronauti di bere del buon caffè. Queste sono 2 delle particolarità, e poi ci saranno invece tanti arrivi, come sempre, di navicelle che porteranno del materiale a bordo della stazione, e Samantha Cristoforetti sarà una degli astronauti che guiderà l'avvicinamento di queste navicelle alla stazione spaziale per poterle attraccare. Quindi il famoso docking, che non è mai un'operazione semplice, anche se negli ultimi anni è stata migliorata di molto, potremmo dire, da un certo punto di vista, soprattutto per chi si occupa di spazio, per un astronauta business as usual, cioè quello che succederà sulla Stazione Spaziale Internazionale è quello che sta succedendo da anni. Certamente, è proprio così. Ormai diciamo i vari tipi di esperimenti sono diventati una routine, ed è proprio questa l'importanza di poter continuare questi studi, proprio portarli avanti nel tempo, quelli sull'organismo umano, ma anche per esempio sulla cristallizzazione, in medicina, come si comportano alcune cellule in assenza di gravità, insomma tutta una serie di esperimenti che devono essere portati avanti nel tempo, altrimenti si perderebbe una gran percentuale del loro valore. La Stazione Spaziale Internazionale sarà operativa fino a quando? Perché se ne sta parlando proprio in queste settimane. Fino al 2024 è stato detto che gli americani avranno le sovvenzioni da parte del governo americano di sostenere la stazione spaziale. Ci sono tanti problemi. Per esempio, i russi dicono che dal 2020 vorrebbero togliersi da questa stazione spaziale, e addirittura proprio recentemente è stato detto che vorrebbero costruire una loro stazione spaziale con obiettivi ben più precisi, soprattutto di osservazione della Terra, perché qui è molto importante andare a vedere l'orbita della stazione spaziale, che passa su un territorio russo molto limitato, se non sbaglio attorno al 5-10%. Invece loro vorrebbero controllare da lassù il proprio territorio con una maggiore visione, e quindi ecco il desiderio di costruire questa stazione spaziale. E poi bisognerà vedere un po' l'Europa, anche l'Europa ha aderito alla possibilità di sostenere questi sforzi economici fino al 2024, e poi non si saprà esattamente come andrà a finire. Però bisogna pensarci adesso se si vuole continuare oltre quella data o se si vuole fare qualcosa di nuovo, perché probabilmente quella stazione non andrà più bene oltre al 2024, 2025, eccetera. Certamente, tant'è che i moduli vengono testati per sopravvivere per un ventennio, non di più. Però qui c'è già il dopo, proprio a partire dall'anno prossimo, quando verrà agganciata alla stazione spaziale un modulo gonfiabile di una società privata, della Bigelow. Questa è una storia molto, molto particolare, perché i moduli gonfiabili vennero pensati dalla NASA, ma poi si vide che forse non sarebbero stati utilizzati per tanti motivi, e quindi venne venduto il brevetto, comperato da questa società, che invece ne ha fatte, l'ha fatto proprio e ha già costruito due modelli di stazioni spaziali lanciati nel 2007, vuol dire piccole stazioni spaziali che funzionano alla perfezione, e quindi la NASA adesso ha chiesto di poter lanciare un modulo gonfiabile che verrà lanciato con lo SpaceX, il razzo di un'altra società privata, e verrà portato lassù e verrà agganciato alla stazione spaziale. Dovrebbe rimanere per circa 6 mesi. Se tutto funzionerà bene, non solo la NASA chiederà magari questi tipi di moduli per i lunghi viaggi, ma sarà la Bigelow stesso che, unendosi alla Boeing, come ha già fatto sapere, costruirà una stazione spaziale gonfiabile, e quindi lì potrebbe esserci davvero il famoso turismo spaziale, non certo quello dei voli suborbitali, ma quelli dei lanci dove delle persone possono salirvi e rimanere 8, 10, 15 giorni. Avremo tempo per riparlarne di questo sicuramente. Risposta flash: i cinesi sono gli unici che stanno facendo una stazione spaziale internazionale per i fatti propri, giusto? È proprio così, e si pensa che dal 2020 ne costruiranno una molto più grande. Sono già in orbita. Sono già in orbita con una mini stazione spaziale, sono dei moduli che possono vivere non più di un anno o due, ma il loro progetto è quello di farne una propria a partire proprio dalla fine di questo decennio. Senti, uno dei problemi che stiamo ancora vivendo è che per portare gli uomini sulla stazione spaziale internazionale c'è un solo modo, oggi la Soyuz russa. Vecchi sistemi, molto affidabili, però quello è l'unico modo. Gli americani sono quasi pronti per un'alternativa, perché dopo il pensionamento dello Space Shuttle si devono affidare ai russi, con costi anche molto, molto elevati, parliamo di milioni e decine di milioni di euro per ogni volo. Cosa succederà fra qualche settimana? All'inizio di dicembre è programmato il lancio della Orion, a cui la NASA tiene tantissimo. Questa capsula, una capsula che può portare fino a 6 persone, è quella che dovrebbe permettere all'uomo di ritornare al di là dell'atmosfera terrestre, al di là dell'orbita terrestre, e quindi portare l'uomo da prima attorno alla Luna, poi verso gli asteroidi, e poi si parla nel 2035 addirittura o su un satellite di Marte o addirittura su Marte. Quindi questa capsula sta per partire per questo volo molto molto atteso dalla NASA. È una capsula che ricorda l'Apollo, ricorda altre capsule che abbiamo visto negli anni passati, ma estremamente più sofisticata, estremamente più sicura, e questa volta verrà lanciata con un razzo sicuro, è il Delta 4, è un razzo molto potente che la lancerà fino a 4.800 km d'altezza. La stazione spaziale si trova a 400 km per avere un'idea, e da lì verrà fatta cadere sulla Terra letteralmente, per sperimentare soprattutto lo scudo termico, che è uno degli elementi più complicati, più complessi per una navicella che, dovendo arrivare per esempio dalla Luna, arriva a 40.000 km all'ora e non a 28.000 km all'ora come le navicelle che, lasciando la stazione spaziale, poi ritornano a Terra. Questo sarà l'esperimento principale, l'elemento fondamentale, ma ovviamente all'interno c'è tutta la strumentazione che serve per avere una navicella che possa poi portare degli uomini. Quindi questo 4 dicembre, questa è la data ad oggi fissata per il lancio, è una data che per la NASA è fondamentale. Quando sarà pronta? Quando dovrebbe essere pronta? Il primo lancio con uomini è il 2021 o il 2020, ancora si sta lavorando. Nel 2018 è programmato un lancio senza uomini di una decina di giorni attorno alla Luna, per poter verificare che tutto funzioni al meglio. In quegli anni, 2018-2019, si andrà a catturare un asteroide, lo si porterà vicino alla Luna, tra la Luna e la Terra, e nel 2020-2021 verrà lanciata una capsula con 2 o 3 uomini per andare a prendere campioni di questo asteroide. Se tutto andrà bene, è già fissato per il 2024 un lancio molto più lontano, cioè verso un vero asteroide nella fascia degli asteroidi. Quindi fino al 2020 sulla Stazione Spaziale Internazionale ci si va solo con i russi? Ci si potrebbe andare anche con delle navicelle private, perché dal 2016 la Boeing lancerà una propria capsula che permette di portare nello spazio 7 uomini ed è proprio l'alternativa americana ai russi. La NASA ha dato tanti finanziamenti a 3 società private, una è la Boeing, l'altra è la SpaceX e l'altra è la Sierra Nevada Corporation, che hanno costruito in questi anni dei sistemi per portare degli uomini nello spazio. La Boeing, la capsula della Boeing è stata costruita solo per arrivare alla stazione spaziale o comunque in orbita terrestre, mentre la SpaceX sta costruendo il numero 2 della Dragon, che già viaggia per portare materiali alla stazione spaziale, per portare degli uomini non solo alla stazione spaziale ma addirittura su Marte, mentre invece la Sierra Nevada sta lavorando su uno Space Shuttle che dovrebbe essere in grado di portare degli uomini alla stazione spaziale, ma anche portarli semplicemente attorno alla Terra e addirittura atterrare in uno dei 24 aeroporti che ci sono nel mondo e che la Sierra Nevada ha scelto per far scendere questo piccolo shuttle. È molto molto più piccolo, è a dimensioni di un terzo del famoso Space Shuttle, ma sicuramente ha questa chance di potersi attraccare alla stazione spaziale. A proposito di asteroidi, tu hai accennato poco fa a progetti futuri per andare su asteroidi. I giapponesi, non con degli uomini ma con una capsula, con una sonda, stanno per andarci. Certamente, perché gli asteroidi sono proprio un obiettivo di ricerca scientifica di grande interesse per tanti motivi. Simili alle comete, noi con Rosetta siamo andati sulla cometa. Gli asteroidi sono parenti, no? Sono parenti abbastanza stretti, tant'è che in questo momento ci sono degli asteroidi che si comportano come comete, si sono scoperti, e delle comete che si sa che erano delle comete ma che adesso sono degli oggetti più simili agli asteroidi. Ma perché sono importanti? Per tanti motivi, dicevo, due principalmente. Uno, perché potrebbero caderci sulla testa e quindi è necessario sapere di cosa sono fatti, come sono fatti, per poterli affrontare. Due, perché sono ricchissimi di minerali, quindi davvero si pensa e si parla di poterli sfruttare come miniere di certi elementi molto che scarseggiano sulla Terra. E il terzo, ovviamente, lo aggiungo adesso, è il fatto scientifico. Conoscere gli asteroidi e le comete ci riporta indietro alla nascita del nostro sistema solare, e loro veramente sono dei mattoni che ci permettono di ricostruire tutto quanto. I giapponesi vanno con questa missione a tastare un asteroide, ci scendono con una sonda in 3 o 4 punti, prendono un po' di sabbia, se lo mettono al loro interno e poi una capsula la riporta sulla Terra. Pensate che trasportano anche una specie di proiettile che arriverà a circa 40 metri dalla superficie di un asteroide, lì verrà fatto esplodere, ci sarà la formazione di un cratere e quindi la sonda potrà scendere un po' in profondità per prendere del materiale fresco. Anche questa missione, come Rosetta, sarà lunghissima, partirà appunto nel 2014 per arrivare all'asteroide nel 2018 per ritornare a Terra nel 2020. E nel 2016 gli americani faranno una cosa molto simile, la Osiris-Rex, si chiama così questa missione, andrà su un altro asteroide per prenderne dei campioni e riportarli a Terra, ma saremo nel 2024. In ogni caso sono missioni che servono proprio come base per la futura esplorazione degli asteroidi. Adesso facciamo una breve pausa, questo è 2024, siete all'ascolto di Radio 24, riprendiamo tra poco, sarà con noi Carlo Purassanta che è l'amministratore delegato di Microsoft Italia. 2024. Vi ricordo che la versione podcast di 2024 sarà disponibile poco dopo il termine della nostra puntata. Siamo in onda il venerdì sera tra le 22 e le 23, domenica alle 13, naturalmente sempre sui nostri sistemi online, quindi sul nostro sito internet. Io sono Enrico Pagliarini, il nostro indirizzo di posta elettronica è 2024@radio24.it. Abbiamo incontrato, ho incontrato qualche giorno fa, l'abbiamo ospitato nei nostri studi, Carlo Purasanta, che è amministratore delegato di Microsoft Italia dal 1 febbraio di quest'anno. Microsoft sta cambiando molto e forse è proprio questo il maggior interesse che ci ha spinto ad incontrare Carlo Purasanta. Uno dei cambiamenti, forse il motore principale del cambiamento di questa azienda, e tra l'altro per inciso a proposito del cambiamento, a proposito dell'interesse che sta suscitando Microsoft, il titolo alla borsa, al Nasdaq, è salito di circa il 30% dall'inizio dell'anno, e questo è un segnale. Ci sono tantissimi articoli che parlano del cambiamento e della trasformazione di Microsoft. Dicevo, uno dei motori, probabilmente il motore principale di questo cambiamento, è il nuovo amministratore delegato globale, Satya Nadella, personaggio che già faceva parte di Microsoft, è stato chiamato a sostituire Steve Ballmer, di cui si è parlato molto, non stava simpatico a tutti e sicuramente c'erano degli elementi critici su Ballmer. Dal 4 febbraio è cambiato anche l'amministratore delegato globale. Allora, siamo partiti da qui per parlare di trasformazioni nel mondo della tecnologia e naturalmente partendo da Microsoft. Allora, Satya in effetti è un personaggio molto particolare. In realtà la Microsoft come azienda ha 39 anni e ha avuto come amministratore delegati il fondatore e poi l'impiegato numero 29, che era Steve Ballmer. Quindi due persone che dagli anni 70 hanno creato l'azienda e l'hanno portata a quella che poi conosciamo oggi. Per la prima volta abbiamo qualcuno che invece è stato assunto un giorno nella sua vita professionale, che aveva già svolto anche altrove, ed ha lavorato 22 anni in praticamente tutte le divisioni, sia consumer che enterprise, che è già una cosa molto particolare, e che quindi, diciamo, si è imposto per leadership, per competenza, per profondità di visione. E lui oggi ci sta accompagnando su un percorso, direi, abbastanza nuovo e di apertura, innanzitutto, verso un ecosistema esterno. Già Microsoft da anni ha sposato una strategia che è completamente ecosistema, quindi vendere attraverso i partner, aprirsi alle tecnologie anche degli altri. Però c'erano alcuni passi che non avevamo ancora fatto e Satya ci sta portando a fare questi passi ulteriori. Quindi abbiamo sentito molto parlare di Office sulle piattaforme. Infatti ti vorrei fare la prima domanda su Office, perché sì. Uno, leggendo o ascoltando le notizie relative ad Office delle ultime settimane, quindi la decisione di rendere gratuito Office su iPad, su piattaforma iOS e anche su Android, uno potrebbe di fronte a questa notizia dire: ma questi sono impazziti, visto che Office è ancora oggi uno dei due prodotti che vi garantisce maggiori ricavi, giusto? Assieme a Windows. Sì, allora, intanto innanzitutto la parte Office gratuita per un consumatore, quindi comunque abbiamo sempre il business rispetto alle imprese che rimane fondamentale. Però effettivamente è un segno dei tempi, cioè la nostra strategia è molto semplice. Noi ci rendiamo conto che abbiamo avuto per una ventina d'anni delle parti di mercato gigantesche sul PC. Il mondo però oggi, lo sappiamo tutti, è cambiato, quindi le persone utilizzano dei dispositivi diversi, utilizzano lo smartphone, ce ne sono 1,5 miliardi ogni anno venduti, utilizzano dei tablet, ce ne sono 200-300 milioni all'anno venduti, e molti continuano ad utilizzare il PC. Tra l'altro il PC sta risalendo per la prima volta dopo 6 anni. E poi magari ne parliamo. È interessante questo, certo. Quindi in un mondo così diverso noi non possiamo più continuare a pensare a un mondo in cui abbiamo il 90-95% di una parte di un mercato, ma in realtà ci consideriamo quasi un nuovo entrante in un mercato di dispositivi che fa 3 miliardi, e su questi 3 miliardi noi abbiamo, dipende dai paesi, ma 15-20% di parte di mercato. Quindi per fare in modo che le persone abbiano l'esperienza dei nostri servizi, dobbiamo aprire i nostri servizi sulle piattaforme anche Android e iOS. Skype lo utilizzano già tutti. Ecco, noi vogliamo che la stessa cosa succeda anche con Office e con tutti gli altri prodotti, cioè tutti gli altri servizi che possono raggiungere un utilizzatore su qualunque dispositivo. Sì. Quando su internet, sulle piattaforme mobili, io come consumatore ho qualche cosa gratis, so, se sono un consumatore attento, che questo gratis poi in realtà non è completamente gratis, perché qualcuno mi chiede dei dati per fare analisi di vario tipo. In cambio del gratis, che cosa mi chiedete? O è un modo per farmi abituare a Office e poi utilizzare Office? Per noi è veramente una questione di esperienza, cioè di permettere a ciascuno di avere il meglio di quello che conosce di Microsoft o che non conosce, perché non dimentichiamo che ci sono anche dei giovani che magari non hanno l'abitudine, cioè tutti quelli che hanno 30, 40 anni, 50 anni lo utilizzano da sempre, ma i ragazzini di 15 anni si devono abituare anche a delle cose che tra l'altro troveranno nel mondo del lavoro. Quindi noi vogliamo che abbiano l'esperienza dei nostri servizi. Da un punto di vista della sicurezza e privacy, noi abbiamo delle condizioni, diciamo, estremamente chiare. Quindi diciamo sempre quello che facciamo, lo scriviamo chiaramente e puoi sempre decidere alcune cose di farle fare e alcune cose non farle fare. Quindi quando fai una ricerca con Bing, quando utilizzi una nostra applicazione, noi ti chiediamo se possiamo utilizzare i tuoi dati e se tu vai nelle terms and conditions puoi sempre dire questa cosa non la voglio fare, non voglio che si registrino delle informazioni su di me. Penso che da questo punto di vista Microsoft sia uno veramente una delle aziende che spinge più in alto il livello di chiarezza e di strutturazione delle politiche di privacy. Sì, questo è sicuramente un tema molto importante, soprattutto negli Stati Uniti, forse più sentito che in Italia, non direi in Europa, perché in Europa è un tema di cui si parla molto spesso, di fronte al gratis ci vengono chiesti molti dati. È comunque anche motivato dal fatto che esistono delle alternative come quelle offerte da Google e anche quelle open source, perché effettivamente LibreOffice e tutto quello che gira attorno sono alternative che sono effettivamente maturate negli ultimi anni. Sì, con la differenza che quando un'azienda come Microsoft investe da 30 anni sulla cosa ed è impegnata con delle spese importanti di ricerca e sviluppo per i prossimi anni, diciamo che è una garanzia di avere i servizi sempre più moderni e che ti permettono di fare sempre più cose con i livelli di sicurezza che puoi immaginare di un'azienda come la nostra. Sì. Sempre Satya Nadella ha detto mobile first, cloud first. Quindi prima il mobile, dobbiamo pensare prima a quello, e appunto la dimostrazione l'abbiamo avuta anche dalla scelta che è stata fatta su Office, cloud first. Allora, cloud first non l'ho sentita dire molto spesso da altri competitor, ma mobile first sono anni che sento da altri competitor dire questa cosa. Per voi che cosa significano queste due tendenze? Allora, cominciamo con il mobile first e parliamo di Windows 8, che è stata una rivoluzione. Allora, alcuni hanno criticato l'approccio, vi vorrei raccontare come la vedo io, come la vediamo noi, ma soprattutto come la vedo io personalmente. Immaginatevi un editore di software come Microsoft, che appunto per 30 anni è stato al 90-95% di parte di mercato sul PC. Vede che il mondo è cambiato, quindi c'è l'iPad, c'è l'iPhone, ci sono i tablet Android che escono fuori, e decide di ricostruire il proprio approccio di sistema operativo, non facendo un upgrade semplice del desktop, ma reimmaginando un sistema che possa funzionare innanzitutto su dei dispositivi mobili. Allora, l'abbiamo fatto perfettamente la prima volta? Forse no, però è una scommessa che è estremamente coraggiosa, perché vuol dire che noi ci siamo aperti a un mondo appunto che è 10 volte più grande, quindi per noi un'opportunità in realtà di espansione e di portare più servizi a più persone, ma l'abbiamo fatto non sfruttando la nostra posizione, ma andando a guardare quello che gli altri facevano e reimmaginando il modo di fare software per il consumatore. Questo è molto molto molto coraggioso. Allora, l'8 non era perfetto, l'8.1 adesso funziona, cioè insomma, funzionava bene anche l'8, ma l'8.1 diciamo l'esperienza è migliorata, e adesso abbiamo annunciato per l'anno prossimo il Windows 10, quindi un'esperienza, dopo aver ascoltato il feedback dei consumatori, ancora più semplice, ancora più integrata, e che per la prima volta porterà il sistema operativo a essere quello che noi chiamiamo un sistema operativo universale, cioè lo stesso codice e la stessa esperienza gira su tutte le piattaforme, e siamo la prima azienda al mondo a farlo. Sì, questo quindi, effettivamente è una dal PC ottima al cosa. Tablet, al telefono, sì, fino ai braccialetti o all'internet delle cose, sarà lo stesso codice. Per uno sviluppatore vuol dire che tu sviluppi un'applicazione e funziona su tutti i dispositivi, fino alla Xbox. Sì, questa novità è stata commentata positivamente da molti esperti. Mi confermi però che Windows 10 arriva il prossimo anno, si chiama 10 e non 9, per sì, dare un po' un taglio col passato. Cioè effettivamente Windows 8 non è stato un grande successo, non è un grande successo. Ma dipende sempre da come uno vede le cose. Quando ci sono 200-300, adesso non so quanto siamo, probabilmente 300 milioni di dispositivi che girano su Windows 8, cioè vorrei vedere quante aziende vorrebbero avere 300 certo, milioni di cose che girano sul proprio software. Quindi diciamo che dove non è stato forse percepito come un successo è che era talmente diverso che molte persone che però erano abituate al desktop si sono trovate in un mondo che non riconoscevano più. Ed è per questo che il 10 mette un pochino d'accordo, nel senso che il sistema riconosce il dispositivo e in funzione del dispositivo ti propone l'esperienza più consona a quel dispositivo. Quindi se tu hai un PC fisso ti propone una cosa che assomiglia molto di più al desktop e quindi non è, diciamo, no, inquietante per qualcuno che non è abituato a un'applicazione mobile su un tablet. Adesso dico una cosa che potrebbe far scomodare sulla sedia molti nostri ascoltatori che amano il mondo open source. Già da tempi in realtà Microsoft qualcosa nel mondo open source lo fa, però voi sicuramente siete sempre stati dalla parte opposta del mondo, del concetto dell'open source. State avvicinandovi o aprendovi al mondo open source. Allora, spiegaci come e perché. Nel mondo dell'informatica la tecnologia va a una tale velocità che le posizioni, no, che non mutano mai, non sono portatrici di grande, no, intelligenza e valore. Allora, su alcune cose noi siamo convinti che ovviamente le nostre applicazioni, perché abbiamo della ricerca dietro, perché proponiamo degli update continui delle funzionalità verso il cliente, in realtà si dimostra che è una scelta vincente anche economica nel tempo, piuttosto che andare su, alle volte, un mondo libero, però ogni volta che vuoi aggiungere una funzionalità la devi sviluppare sopra, eccetera, eccetera. Quindi quello che può sembrare di bassissimo costo all'inizio, quando guardi su un periodo di 5-10 anni, non è assolutamente vero che sia sempre meno costoso. Però non possiamo rimettere in discussione il fatto che alcuni clienti hanno dei pezzi della loro informatica fatto anche sul mondo open. Allora, quando noi, e abbordiamo anche la parte cloud first, quando noi andiamo verso un mondo in cui il cloud permette di avere un paradigma di costo della capacità di processare l'informazione o di stoccarla, quindi di metterla, no, in un deposito, il cloud ti permette di farlo a un costo che è 10 volte più basso dell'informatica tradizionale. Allora, noi vogliamo essere per il futuro la piattaforma di riferimento per le aziende che vogliono fare un'informatica moderna, più veloce, che costa molto di meno. Quando vuoi far questo e sei una piattaforma, ovviamente la tua piattaforma deve poter avere sopra qualcosa che è Microsoft, ma anche delle cose che sono degli altri. Quindi SAP deve poter girare su Azure, che è il nostro cloud pubblico. Oracle deve girare su Azure. Le cose di IBM, abbiamo fatto un accordo con loro, possono girare su Azure. Anche delle cose open source possono girare su Azure. Questo perché i clienti hanno un'informatica che ha diversi componenti e noi dobbiamo fare in modo che tutto questo possa girare sulla nostra piattaforma. Come spiegate queste cose agli imprenditori? Perché uno potrebbe, dopo aver ascoltato queste cose, un imprenditore potrebbe dire: io non ho capito niente, che cos'è questo cloud? E effettivamente la lentezza e anche l'ignoranza informatica di molte aziende è un problema del sistema paese. Ma si dice da tempo che anche chi vende la tecnologia non è mai stato capace di spiegarla per bene. È ancora un problema ed effettivamente c'è un problema di comunicazione? Ma diciamo che c'è un problema di linguaggio. Mm. Quando tu sei, noi come fornitore, ma anche il Chief Information Officer all'interno di un'azienda. Quando c'è? Beh, in molte, anche piccole e medie aziende, nelle piccolissime no, quindi in tante non c'è. Io consiglio sempre però di assumere un ragazzo di 22, una ragazza di 22-23 anni che esce dalla scuola, che è un nativo digitale, che sicuramente può aiutare l'imprenditore a digitalizzare un pezzo del loro business. Magari non si chiama CIO, si può chiamare Chief Digital Officer o comunque si chiami qualcuno che aiuta con la tecnologia. Però è vero che c'è un problema di linguaggio, cioè quando tu sei nella tecnica, nell'informatica, per tanti anni hai un linguaggio piuttosto ingegneristico, tecnico, eccetera. Ed è difficile spesso capirsi su come la tecnologia può cambiare il business dell'azienda. Allora, ci sono dei modi però per risolvere questa cosa. Noi con i grandi clienti abbiamo aperto a Milano un centro, che è proprio un centro che vuole essere un modo di mettere in scena la tecnologia. Cioè non si parla della tecnica in quanto tale, ma si mostrano delle cose, si mostrano delle possibilità. Quindi mostriamo un ufficio, mostriamo un negozio, mostriamo una casa e spieghiamo come la tecnologia può cambiare il lavoro della persona, la comunicazione e come può utilizzare l'intelligenza dell'informazione per prendere delle decisioni, per collaborare con delle persone, eccetera. E quindi questo qui è un modo per far parlare tecnica e business in un luogo. Lo facciamo anche in 7-8 università italiane in cui abbiamo aperto un piccolo centro con dei dispositivi e delle applicazioni dei nostri partner sopra, quindi questo qui è a disposizione dei nostri partner locali. Abbiamo cercato, no, in diverse città di portare questa competenza. I nostri partner quindi possono invitare delle piccole e medie aziende locali e fare un workshop di innovazione. Stiamo anche lavorando a livello di Confindustria Digitale, quindi il nostro, no, gruppo di industriali dell'informatica, stiamo lavorando a un progetto per insieme, in maniera precompetitiva, andare a fare delle conferenze per spiegare a un imprenditore, un piccolo imprenditore o un amministratore delegato di una piccola azienda, quali sono le cose essenziali da sapere sull'informatica. Questa sarà un'iniziativa che verrà nel 2015, ci teniamo molto, lavoreremo anche con il governo per fare in modo che tutta la parte di Digital Champions che ci sono in Italia, nei comuni, che si possano fare delle azioni insieme e andare insieme sul territorio. Quindi si farà un giro delle città per raccontare questa storia. Quindi cerchiamo di portare con un linguaggio semplice l'informatica perché sia capita e assorbita nelle aziende italiane che ne hanno sicuramente bisogno per modernizzarsi, vendere di più all'estero, sì, e fare delle cose più interessanti. A proposito di questo, in attesa del tour italiano e in attesa che magari alcuni imprenditori vadano nel centro che avete aperto a Milano per raccontare la tecnologia, possiamo fare alcuni esempi, anche un esempio sul cloud. Che a me azienda, a cosa potrebbe servire il cloud? Per farci che cosa? Ma guarda, se tu guardi... Potremmo parlare 8 ore. Sì, si può parlare 8 ore perché è completo. Però per farlo semplice, cioè quando un'azienda grande come Fiat o come Generali investe in informatica, ovviamente ha dei mezzi che una piccola azienda non può avere, giusto? Quindi se tu vuoi un'applicazione che ti permette di gestire una relazione col cliente, quando vuoi un'applicazione che ti gestisce la logistica, quindi un ERP, qualunque sia il progetto, se uno ha tanti mezzi ha anche la possibilità di farsi un'infrastruttura proprietaria, quindi tu compri l'hardware, compri il software, fai il progetto specifico, lo installi e lo fai utilizzare da 2 persone. Una piccola azienda non si può permettere tutto questo. Il cloud è un modo per fornire l'informatica come un servizio, come se fosse un cavo del telefono o una spina per l'energia, ok? Tu hai il servizio che viene da altrove, quindi è per te, è la tua utilizzazione, quindi è proprietaria da un punto di vista dell'utilizzo del software, però tu non devi comprare il software, non devi comprare l'hardware, devi semplicemente pagare in funzione di quanti utilizzatori della tua azienda usano quell'applicazione. È come se fosse Office, è la stessa cosa in realtà, però ti diamo dei tool, cioè dei servizi per permettere alle tue persone di lavorare in maniera diversa. Quindi di gestire una relazione col cliente, di avere delle informazioni di business intelligence, quindi di capire come il tuo business sta andando, eccetera, eccetera. Quindi puoi ottimizzare le operazioni della tua azienda e cambiare il modo di lavorare delle persone. Cosa vuol dire? Che a parità di numero di persone puoi produrre molto di più, ma soprattutto puoi internazionalizzarti molto più facilmente, perché tu puoi, grazie al web, andare fuori e la logistica la gestisci in maniera integrata, sai cosa devi comprare, sai dove stanno le cose, sai cosa stai producendo. Sì. Tutto questo... La digitalizzazione dei processi una volta era più complicato, oggi col cloud lo puoi fare con dei costi veramente bassi e soprattutto non con dei progetti che durano tanto, quindi hai l'idea e ci vogliono poi 6, 7, 8, 12 mesi per realizzarla. Compri un servizio e lo puoi installare direttamente. E questo è rivolto ad aziende di che dimensione? Molto piccole? Anche molto piccole. Cioè l'Office 365 che ti permette di collaborare all'interno e all'esterno dell'azienda in maniera completamente diversa, lo può comprare un consumatore. Quindi va bene anche per l'azienda di 5 persone. Ovviamente quando si parla di ERP e di gestione dell'azienda da un punto di vista logistico, di produzione, eccetera, piuttosto delle aziende che vanno probabilmente dalle 50 persone in su, però stiamo andando qui su milioni di aziende in Italia rispetto a qualche centinaio di migliaia che si possono permettere l'informatica, diciamo, proprietaria tradizionale. Sì. E sta accadendo? Sta accadendo. Sta accadendo a grandissima velocità. Pensa che Office 365 in tutta la storia, 39 anni di azienda Microsoft, è l'offerta commerciale che sta crescendo alla più grande velocità in 39 anni. 5 trimestri in cui siamo cresciuti più del 100%. Prossimo anno compite 40 anni, quindi. 40 anni a livello mondiale e 30 anni in Italia. Ah, quindi beh, insomma, una buona età. Torniamo al mobile. Ecco, in quel caso, mentre nel mondo PC o comunque nell'ufficio classico siete leader di mercato, anche se avete competitor che bussano, cioè non solo bussano, sfondano le porte, vanno avanti insomma con un treno. Ecco, nel mobile invece non avete quote di mercato rilevanti, anche se è vero che l'Italia è un mercato molto frizzante per Windows Phone. Ecco, lì come pensate di sfondare le porte? Allora, tutti hanno sentito, immagino, l'acquisizione della parte mobile di Nokia ormai qualche mese fa. Stiamo procedendo con un'integrazione. Adesso abbiamo chiamato quindi la famiglia Microsoft Lumia. Lumia è un nome che risuona molto bene nelle orecchie dei consumatori. Hai ragione che le parti di mercato non sono ancora altissime, però insomma già a livello mondiale stiamo davanti a BlackBerry, quindi stiamo ormai come ecosistema crescendo. Però è una bellissima marca, BlackBerry, che ha aiutato tante persone dubbio, a lavorare. Sono un grande fan di BlackBerry. Quindi però, comunque sta diventando... In questo contesto uno potrebbe dire, beh, è facile superare BlackBerry, perché insomma però, è arrivato... Come Uriazzi e Curiazzi bisogna fare un pezzettino alla volta, cioè. Quindi bisogna superarne uno alla volta. Allora, a livello mondiale siamo al 4-5% di parte di mercato e stiamo salendo. In Europa ci sono degli articoli che mostrano come in questo trimestre la crescita è estremamente rilevante e vuol dire che stiamo diventando un ecosistema molto importante. In Italia siamo già al 15%. Allora, ogni trimestre ovviamente si combatte con i nostri, no, con Apple, con Android, eccetera. No, e non è sempre facile, però 15% vuol dire che si cominciano a vedere tanti Lumia in Italia e in realtà il feedback è estremamente positivo. Cioè il Lumia è una piattaforma molto moderna, visualmente bella perché colorata, semplice, fluida, le persone, no, no, sono, le persone non ci sono contente. Dubbi, certo, questo e è soprattutto vero. La cosa importante è che con Windows 10, come dicevamo prima, diventerà un'esperienza uguale al PC, uguale al tablet, uguale alla Xbox, quindi da un punto di vista dell'esperienza sarà sempre più bella e più anche capita, e quindi noi consideriamo che andremo a prendere delle parti di mercato. No, non vogliamo assolutamente arrivare come al PC all'80% al 90%, non è l'obiettivo, però essere un ecosistema significativo, essere intorno al 20-30% ci sembra avete normale. In programma voi, diciamo, la gran parte della quota di mercato è fatta da prodotti di Lumia, comunque sì, fatti da voi, però c'è qualche produttore, pochissimi, che fanno prodotti con il vostro software. Sì. Pensate di allargare questa partnership con altri produttori, perché effettivamente uno dei grandi successi di Android è che tutti i produttori cinesi, gli asiatici, tutti sì, si sono buttati su Android. Noi abbiamo una grandissima competenza di ecosistema. Se pensi al PC, a parte che adesso abbiamo il Surface, ma che è un pezzettino della storia, ma in realtà lavoriamo con HP, con Lenovo, con Asus, con Acer, adesso poi mi sgrideranno quelli che non ho citato, che non abbiamo citato, ma sono tantissimi. Quindi l'abitudine di lavorare con dei partner che noi chiamiamo OEM, quindi che fanno manifattura di prodotti, siamo veramente abituati. È vero che sul telefono, per andare più veloci, abbiamo fatto un'acquisizione, ma non vuol dire che non si possa lavorare sul sistema con altri. Succede già, e sono abbastanza sicuro che succederà ancora. Che ad esempio una cosa che io mi domando spesso è: voi avete una partnership piuttosto seria e di lunga data con Lenovo, ad esempio. Certo. Lenovo si è comprato Motorola, che arriva da una tradizione Android, Google, eccetera, eccetera. Potrei pensare che Lenovo possa scegliere anche di proporre, certo, un'alternativa. Certo. Adesso non conosco esattamente il contratto però che hanno firmato, succedere. Magari per un periodo, non sì, può, non, adesso non so sì, però le regole del succedere, gioco, sì, ma assolutamente sì. Potrebbe succedere. Assolutamente sì. Nokia perché l'avete proprio cancellato? Ci sono i nostalgici che si sono un po' lamentati. Ma perché in realtà quando, allora è una cosa molto pragmatica, quando si vanno a fare dei test sulla percezione, il nome Lumia balza in testa, quindi è veramente una cosa molto semplice, quindi molti sono stati sorpresi da questa scelta, però a parte che le persone tutti ormai leggono le storie, quindi sanno benissimo che Nokia e Lumia è una storia. Però soprattutto per le nuove generazioni Lumia risalta veramente come, da un punto di vista della percezione, moderno, fluido, bello. E quindi perché non utilizzarlo come nome principale? Che motore di ricerca usi? Bing. Sempre. Sempre? Eh? Sempre. Non guardi ogni tanto qualcosa di alternativo, giusto per avere un'idea? Lo guardo per sapere come funziona e per comparare sempre, però uso tutti i giorni Bing. Anche su Lumia è integrato e quindi è più facile. L'iPad? Non ce l'ho, non l'ho mai avuto. Proprio? No, ma io lavoravo in IBM prima, quindi devo dire che ero piuttosto BlackBerry che Apple all'epoca. Anche se rispetto e amo Apple moltissimo. Sì. Bene, io ringrazio Carlo Purasanta per essere stato con noi. Buon lavoro e a presto. Grazie mille, arrivederci. Adesso facciamo una pausa. Questa è 2024, siete all'ascolto di Radio 24. Tra poco parleremo di traffico non quello delle notizie che arrivano adesso, ma di traffico che viene rilevato da sensori, e sono sempre più questi sensori, e poi questi sensori inviano dati ai nostri smartphone, ma anche ai navigatori classici. Parleremo di questo e delle trasformazioni che riguardano il mondo del traffico. Vi ricordo che l'intervista integrale a Carlo Purasanta, che è l'amministratore delegato di Microsoft, la troverete nella nostra versione podcast. A tra poco. 2024 è anche su Facebook e Twitter. Cerca 2024 o Enrico Pagliarini. 2024. Riprendiamo questa puntata di 2024 con alcune notizie che aggiungiamo nella versione podcast del nostro programma. Un paio di notizie riguardano Google, perché Google ha iniziato a sperimentare un nuovo servizio che si chiama Google Contributor, quindi è scritto così, molto interessante, perché sulla base, è un test, è un esperimento che per il momento è aperto solo ad un numero limitato di persone. Se uno vuole partecipare a questo test si deve iscrivere, cercate Contributor per iscrivervi e attendere che vi invitino, ma non è detto che succeda. Allora, come funziona Google Contributor? Sulla base di un abbonamento che va dagli 1 ai 3 euro per mese, uno può decidere di vedere e leggere alcuni siti web che partecipano a questa sperimentazione senza pubblicità. Quindi praticamente Google sta andando contro al proprio business, sta sperimentando una cosa che andrebbe contro al proprio business, che si basa sulla pubblicità distribuita oltre che sul motore di ricerca anche attraverso un network su vari siti web. Comunque molto interessante, questo è un grande dibattito, visto che la rete internet e molti servizi si basano sui contributi della pubblicità, ci si chiede se i consumatori, se i lettori sarebbero disposti, in cambio di una piccola quota mensile, a non ricevere e vedere la pubblicità. Questo è un esperimento che Google sta facendo. Tra l'altro Google ha accusato da vari media di essere quello che ha creato i danni maggiori, anche rovinando alcuni business tradizionali, è quello che sta invece facendo questo test. Vedremo che cosa succederà, ci saranno notizie. Però, visto che Google sta diventando sempre più potente e sempre più pieno di informazioni personali di tutti gli utenti, che vengono poi utilizzate per erogare pubblicità in modo targetizzato, in modo personalizzato, allora, visto che è così forte la potenza di Google, il Parlamento europeo, secondo quello che scrive il Financial Times, il Parlamento europeo si prepara la prossima settimana a votare un testo, il voto è previsto per giovedì, un testo in cui chiederebbe alla Commissione europea di obbligare Google a dividere l'attività di ricerca, il search engine, quindi il motore di ricerca, da tutto il resto. Lo scorporo del motore di ricerca dagli altri servizi commerciali. Questa è una richiesta che verrebbe fatta dal Parlamento europeo alla Commissione, che ha il potere, che avrebbe il potere nella sua versione antitrust, di fare questa operazione. Sicuramente ci saranno polemiche. Secondo quello che scrive il Financial Times, i vertici di Mountain View, dove ha sede Google, sono furiosi per la natura politica di questa mozione, di cui sono venuti a conoscenza solo un paio di giorni fa. E ci credo, Quindi sicuramente questa è una notizia che susciterà molte, molte polemiche. Questa settimana Tiscali ha aggiornato il proprio servizio di chat, la propria applicazione di messaggistica tipo WhatsApp, tipo tutte le altre che di cui ogni tanto diamo notizia. Allora, si chiama Induna, con due O, Indoona, da un nome, da un termine sardo. Sicuramente una ottima applicazione che ha anche una serie di servizi, ci sono una serie di minuti inclusi, gratuiti, per telefonare ad un numero di rete fissa, non solo in Italia ma anche in molti paesi del mondo. Induna attualmente ha 2 milioni di utenti, ci sono una serie di novità che sono state presentate questa settimana. Ne abbiamo parlato con Luca Scano, che è il direttore generale di Tiscali. Allora, la nuova versione di Induna ha numerose feature che sono, ritengo, assolutamente innovative nell'ambito dei programmi delle applicazioni di messaggistica. Le più importanti sono sicuramente la possibilità della chiamata di gruppo, che quindi estende una funzionalità tipica delle chat, che è quindi quella che di creare i gruppi, che generalmente le chat generalmente sono utilizzate per scambiare messaggi. Nel nostro caso invece si può anche effettuare una chiamata vocale a tutto il gruppo. In buona sostanza, uno dei componenti può aprire una chiamata e tutti gli altri possono entrare in questa stanza virtuale e effettuare una conversazione, che è sicuramente un'esperienza per l'utente molto diversa e molto più ricca rispetto a una semplice messaggistica. Comunque qualcosa di diverso, qualcosa che abbiamo solo noi, questo ci rende particolarmente orgogliosi. E oltre a questo c'è la possibilità di fare il file sharing, quindi mentre nelle normali applicazioni di messaggistica generalmente ci si scambia delle foto e gli audio video, nel nostro caso si possono addirittura scambiare dei file sullo stesso modello degli attachment e le email. Qual è il modello di business di un servizio di questo genere, e soprattutto perché ci sono così tanti competitor, perché ci sono tante aziende che hanno investito in questo tipo di tecnologie, molte di queste non stanno facendo i soldi? Il modello di business è sicuramente dato, nel nostro caso è dato dalla possibilità di poter effettuare chiamate a basso costo verso la rete pubblica, perché oltre a questi 100 minuti gratuiti esiste la possibilità di chiamare anche con tariffe molto vantaggiose, ma il modello di business è più che così, come anche quello che fa WhatsApp, è quello appunto di attrarre la usability, di poter monetizzare questo traffico in altro modo, in un prossimo futuro. Pensiamo a tutto il mondo dei big data, oppure al mondo dell'advertising, ma comunque di un advertising evoluto. Tutti quanti ci investono perché sicuramente il modello di messaggistica è un'evoluzione delle telco. Noi, ci tengo a dirlo, qui abbiamo sviluppato questa applicazione in maniera assolutamente autonoma, abbiamo sviluppato questa applicazione utilizzando solo ed esclusivamente competenze e tecnologie in-house, e questo ci consente di avere, oltre a bassi costi di sviluppo, bassi costi di scalabilità del servizio. Quindi il servizio è, soprattutto in un momento in cui si parla molto dell'innovazione tecnologica in Italia, ci teniamo a dirlo, che questa è un'applicazione interamente made in Italy. E mi verrebbe da dire che questa, oltre a essere made in Italy, è l'unica applicazione di questo tipo che fa concorrenza alle grandi applicazioni di messaggistica in tempo reale nel mondo, l'unica made in Italy. Questo è 2024, siete all'ascolto di Radio 24, riprendiamo tra poco. 2024. Molti dei nostri ascoltatori sapranno che su smartphone, ma anche sui navigatori tradizionali, quelli che si piazzano in automobile, oramai da qualche anno ci sono le informazioni sul traffico. Da dove arrivano questi dati? Beh, ci sono una serie di dati che vengono raccolti in maniera anonima dagli smartphone che sono in giro, e le SIM comunicano a dei server. Questo lo fanno i gestori di telefonia, lo fanno anche altre società. In questo modo vengono raccolti dati anonimi, messi tutti insieme possono visualizzare delle mappe di traffico. Ci sono però moltissimi sensori di vario genere che nel corso degli ultimi anni sono stati piazzati sulle automobili e anche sulle strade, che forniscono dati. Il leader in Italia in questo settore si chiama Infoblu, è una società del gruppo Autostrade per l'Italia. Abbiamo parlato anche delle evoluzioni prossime di questi servizi con Fabio Pressi, che è l'amministratore delegato di Infoblu. Il nostro obiettivo è quello di creare un'informazione sul traffico da diffondere su tutti i media digitali. Quindi oggi noi ci siamo concentrati molto sulla qualità dell'informazione, stiamo cercando di raccogliere ed utilizzare tutte le tecnologie che ci possono essere utili per creare un'informazione di traffico, quindi in termini proprio di livello di servizio delle strade, da poter poi veicolare verso i navigatori e renderli intelligenti. Da dove raccogliete i dati? Oggi siamo partiti ovviamente dai sensori tradizionali dell'infrastruttura stradale, essendo anche noi una società di autostrade. Stiamo guardando ormai da parecchi anni alle nuove tecnologie, quali le scatole nere installate a bordo. Giusto per avere un'idea, tra sensori in autostrada, tra sensori che sono installati sulle automobili grazie alle scatole nere che ormai conosciamo, magari molti ascoltatori non le hanno viste, ma sappiamo che soprattutto le assicurazioni utilizzano queste scatole nere che sono inserite nel veicolo, che hanno una SIM a bordo, che quindi trasmettono i dati localizzazione costantemente ad una centrale, quindi si possono raccogliere dei dati naturalmente anonimi, ricordiamo, sul traffico. Giusto per avere un'idea di quanti dati stiamo parlando? Sì, questa è una cosa molto interessante, perché noi raccontiamo sempre che siamo diventati una società di big data, perché arriviamo ad analizzare 90 milioni di posizioni al giorno, circa possiamo dire 300.000 km all'ora di traffic pattern, che sono le strade sulle quali noi valutiamo l'impatto che queste auto hanno sull'effettivo traffico. Tutti questi dati dove finiscono ad oggi? Poi parliamo anche del futuro. Ad oggi paradossalmente abbiamo un database di informazioni sul traffico che è molto più ricco di quello che si può che l'utente può ricevere sui propri mezzi digitali. Ovviamente gli smartphone sono l'oggetto più facile sul quale mandare le informazioni, e su questo stiamo lavorando, ma il nostro canale principale sono i navigatori di bordo, e tant'è che ormai dal 2007 che abbiamo iniziato la collaborazione con quasi tutti i produttori di navigatori e le case automobilistiche tramite un servizio che si chiama TMC, che molti vedono all'interno del veicolo, non sanno effettivamente direttamente l'informazione da dove arrivi, che cerca di rendere il navigatore più intelligente. Però, come dicevo prima, il paradosso è che ci servono i canali digitali per rendere ancora più intelligente il navigatore, perché in questo modo, avendo un canale importante nel quale inviare i dati, il navigatore può ricevere più informazioni e quindi dare un'informazione di traffico molto più precisa rispetto a quella che si può avere oggi. Il TMC o TMC, che tipo di tecnologia sfrutta? Cioè, come arrivano i dati dai vostri server ai nostri navigatori? Ecco, anche questa è una cosa che non si sa, perché il TMC ormai è diffuso in quasi tutti i navigatori, però oggi sfruttiamo ancora l'FM. Per quello dicevo un canale, diciamo, stretto, un canale di comunicazione piccolo. Mentre invece oggi, tramite le SIM a bordo e tramite soprattutto anche la cosa di cui si parla molto, la radio digitale e la sua evoluzione, sarà ed è tuttora anche un canale nel quale poter veicolare questo database di cui parlavo prima. Molto interessante, quindi avete capito da dove arrivano i dati che possiamo vedere sui navigatori. Ci sono ancora milioni di navigatori e non tutti utilizzano lo smartphone, dove ci sono applicazioni per la navigazione, ma come diceva poco fa Pressi di InfoBlu, non è importante lo strumento, l'importante è che questi dati vengano raccolti, messi tutti insieme e poi diffusi attraverso vari canali. Naturalmente un canale per far arrivare su i navigatori o sugli smartphone questi dati di traffico è internet, ma come avete sentito questa tecnologia TMC sfrutta l'FM, quindi la radio. Sono i broadcaster che assieme al segnale della radio trasmettono anche dei dati che noi naturalmente non sentiamo, non vediamo, non ce ne accorgiamo. Questi dati vengono ricevuti dai navigatori dotati di questa tecnologia TMC. Nei prossimi anni, sicuramente assieme alla diffusione sempre più massiccia di connessioni dati, quindi connessioni internet, dalle quali avere in tempo reale la situazione del traffico sulle strade, anche in modo particolare e personalizzato per ogni veicolo, sicuramente un ruolo importante ce l'avrà anche la radio digitale, la digital radio, di cui abbiamo parlato recentemente a 2024. Prima di chiudere questa puntata di 2024, vi vorrei parlare di quello che è successo a Royal Bank of Scotland, che è la più grande banca britannica, posseduta all'81% dal governo, visto che è stata salvata alcuni anni fa durante la grande crisi finanziaria. Dunque, questa banca è stata multata per 56 milioni di sterline dalle due autorità che regolano il settore finanziario nel Regno Unito. Per quale motivo? Perché nel 2012 c'è stato un blackout dell'infrastruttura informatica di questa banca, che ha lasciato senza accesso non solo al sito internet, quindi al proprio conto bancario, ma anche alla possibilità di farsi l'estratto conto al bancomat. Insomma, c'è stato un mega blackout che ha lasciato senza appunto possibilità di visualizzare i propri conti 6,5 milioni di clienti. Allora, per questo motivo, visto che l'hanno combinata grossa, hanno fatto anche un po', insomma, è stata fatta naturalmente un'indagine e si è scoperto che non avevano fatto tutto quello che avrebbero dovuto fare per bene, per garantire la continuità del servizio. Allora la banca è stata multata per 56 milioni di sterline, che è la più grande multa mai data in Gran Bretagna nel settore del retail bancario. Quindi sicuramente una notizia molto importante di questa settimana. Tra l'altro, questa settimana, a proposito di problemi di continuità di servizio, c'è stato un problema anche per Azure, la piattaforma di cloud computing di Microsoft, di cui abbiamo parlato anche in questa puntata di 2024, che ha avuto un disservizio per circa una decina di ore, che ha colpito clienti negli Stati Uniti, in Europa e anche in Asia, un po' in tutto il mondo. Queste cose non dovrebbero accadere, accadono, sono accadute anche ad Amazon, che è la più grande infrastruttura di cloud computing del mondo, non recentemente, lo scorso anno. Stiamo però parlando di un servizio, quello dei servizi cloud, che possiamo citare tantissimi altri casi di quasi tutte le aziende, le grandi aziende di IT che hanno avuto problemi di continuità di servizio. Ogni tanto qualcosa va in palla e a volte non si capisce bene nemmeno il perché. Ripeto, queste cose non devono accadere, anzi nei contratti che questi operatori fanno con le aziende di solito vengono garantite continuità pari al 99,99999 eccetera eccetera eccetera. Ogni tanto qualcosa succede, ma pensate che siamo ancora agli inizi della fase dell'era cloud computing. Pensate ai blackout elettrici, quanti sono stati negli anni in cui l'elettricità si è diffusa, che per quanti anni ancora ci sono stati blackout. Probabilmente, adesso non ho numeri da questo punto di vista, ci sono ancora alcune zone d'Europa e dei paesi sviluppati che sono affetti da problemi di continuità del servizio elettrico, però diciamo sostanzialmente il blackout elettrico è una esperienza che almeno nelle grandi città, nei grandi centri, non accade da parecchi anni, a parte casi tragicamente eccezionali. Bene, continueremo a parlare anche di cloud nelle prossime puntate, non necessariamente nella prossima, ma questo è un tema molto importante sul quale anche molti ascoltatori ci scrivono. Ci sono sicuramente ancora molti dubbi, molte incertezze, anche le aziende devono comunicare meglio per far capire di che cosa si tratta. È tutto per questa puntata di 2024, questa è la versione podcast del nostro programma, io sono Enrico Pagliarini, grazie ad Anita Panizza che ci aiuta in redazione. Potete raggiungerci scrivendoci a 2024, scritto in cifra 2024 e @radio24.it, oppure potete utilizzare anche Facebook e Twitter. Ci risentiamo la prossima settimana, non dimenticate che 2024 va in onda il venerdì sera tra le 22 e le 23, oppure la domenica tra le 13 e le 13.30, ma trovate sempre tutto disponibile anche in podcast. Un buon ascolto e a risentirci alla prossima settimana. 2024. 2024. 2024.